lezioni, convinzioni, sensazioni solitarie di un amore che non c'è. Non ho perso ogni gesto, ogni sguardo che mi porto dentro. Sensazioni solitarie di egocentriche pazzie, geometrie psichedeliche, manie, emozioni che mi porto dentro. Il mondo non mi basta.